fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E salve ragazze, buonasera, noi siamo in diretta con Resto Radio Convento. Io sono in dolce compagnia di Jessica e Roberta. Buonasera ragazze, come procede più o meno? Vi vedo belle cariche. Carichissime. Direi di sì. Io, voi dovete sapere che io sono in compagnia della sposa. Sì. Chi è l'altra? Un'amica? La sorella. La sorella. Nonché damigella. Wow, diciamo che sono proprio in ottima compagnia e sono due bellissime donne, c'è anche da dire questo. Grazie. Cosa mi dite? Cosa avete combinato nella giornata di oggi? Alla sposa cosa gli avete fatto fare? Mi hanno portato a fare un percorso. Sì, parchi avventura. Parco avventura. Dove? Sono curiosa. A Rimbalzello, a Gardone Riviera. Bendata, non sapeva nulla ovviamente. Mezz'ora di strada, bendata. Dai, si è andata bene, era mezz'ora, non era un'ora. Esatto. No, beh, forse anche di più di mezz'ora. Tu non te ne sei resa conto. Di tutto punto, arrivo là. Con i tacchi, scommetto. Sì, ovvio. Ovvio. Arrivo là, bendata, mi dico fai gradini. Come sono crudeli, eh? Sì. E parliamo anche della sorella, eh? Non stiamo parlando solo di amiche. Esatto. Lei è la più crudele, ammettilo. No, sono bravissima. Tra tutte quelle che hai portato stasera, chi è la più crudele? La più crudele? Sei tu la sposa? Sì. Bene, bene, bene. E allora, parliamo un po' dello sposo, ti va? Sì. Facciamo delle domande un po' frizzantine. Ci sei? Sì. Possiamo parlare anche con la sorella o... Ma no, dai, no. Allora, innanzitutto come vi siete conosciuti? Partiamo dalla base. Lavoriamo in ospedale. Ci siamo conosciuti in ospedale. Ah, bene, bene, bene, mi fa piacere. Che ruolo hai in ospedale? Non più sapere le tue cose. Io faccio le pulizie. Benissimo. Anche tua sorella? No. Sono commessa. Ok. E poiché ci sono persone molto curiose, allora, mi hanno chiesto prima, più o meno, delle spose, le loro posizioni preferite. La tua più o meno in questo momento che ti viene in mente quando torni a casa stasera, non so, e c'hai tuo marito, il tuo futuro marito presente, la tua posizione preferita quale potrebbe essere? Io sopra. Sopra. Wow ragazzi, c'è da dire tanta roba, eh. E invece la sorella non parla, vediamo anche la posizione preferita della sorella. Sempre sopra. Sempre sopra, non c'è niente da fare. La donna deve dominare, comandare. Non c'è nulla da fare. Come siete simpatiche ragazze. Allora, mi ripetete i vostri nomi così ci salutiamo e vi lascio proseguire la vostra serata. Jessica. Roberta. Perfetto ragazze, è stato un piacere conoscervi. Anche e vi aspetto alla prossima. Sicuramente. Buon proseguimento ragazze. Grazie a te. Ciao.